portante, la stessa seccatura, capito? Per dire, se io vado in banda laterale dove ci sono i radioamatori a fare ascolto, sento tutti perfettamente, chissà perché. Eccolo Gebero, guarda, ieri sera... Mi apro il telefono un attimo per me. Sempre in AM, però in D, e ho fatto un bellissimo collegamento con le Canarie, contentissimi della modulazione, non veramente bene. Durato un quarto d'ora, sia sul canale, se non mi sbaglio, 30, poi sul canale 11. Mi sono divertito ieri, In banda laterale? No, in AM però in D, canali alti. Canali alti erano ieri, non c'era nessuno, ho provato a girare lì e c'era un bel po' di propagazione, bella, già. Tanto è, è un bel fulmine. No, la D no, quando sono in AM dovrei essere in regola, o sbaglio? Aspetta, dimmi, fra... Giancarlo, cosa stavo scappando poco fa? Sì. E allora c'era il tuo papà Pesce, c'era. E adesso com'è? Penso già va meglio. Ma quando stai uscendo? È una 10:50 modulato, no? Ah, capo, io di me, non vedi di me. Senta. Sto uscendo con 10 gradi, però modulati finge un bel questo microfono. 10:60 c'ha. Cappa. Ma se mi sono comprato la spugnetta, se non vedi con la spugnetta te ne ammuti. Guarda che ce l'ho anche io, ce l'ho con le spugnette, nero ce l'ho io. Troppo bene ci stai. Via. Infatti le ho comprate per le MV5 e le MV4. Io ce l'ho nelle MV5 e nelle MC60, tutti e due. Venga, infatti adesso lo metto per MC60, perché si sta bene, è una bella... un bel microfono che fa. Scappa. Allora, poi te lo ripara, va. Non ti fa fare a poco. Sì, infatti, per quello. Infatti, io non sapevo dove prenderle, infatti mi avevo detto lì all'emiciclo, sono andato lì e me ne avevo fatto, avevo visto che ce li avevo. Adesso non ne ha più neri, sono colorate, ce le ha verdi, azzurre, gialle. Sono belle, so. Perché colorate sono bellissime. Io ho preso un'azzurra, però non l'ho messa. Io ho preso un'azzurra e due neri. Ecco. No, io due nere ne avevo comprato solo. Se avevo solo due microfoni, ne avevo preso due. Adesso quando capita che risalgo ne prendo un altro. E anche io ne ho due microfoni, ma praticamente un'azzurra l'avevo presa perché così l'azzurro mi piace, però poi non l'ho messa perché è troppo allegra, là, più seriosa mi piace. La tua ferma ti dietro? No, avanti Antone. Via. Ti volevo dire, ma ero in regola nel senso già, quando ero in AM però in canali alti si può modulare benissimo, sbaglio? Dov'è? Sino al canale 40 sempre. Facciamo un esempio, in estate per dire, vai sul 5 e poi preparati quei camionisti nelle frequenze alte, lì non si può parlare ugualmente, giusto? No. Dai, esce. Comunque. Perché parlavano tutti, fatto sta, era un bel collegamento fatto, era un bel trabiliato, anche loro lo stesso, conta, sentivo questo tipo che era alle Canarie in macchina, e arrivava a Santiago 7, una bella radio di 5, e va benissimo anche a lui, è contento, proprio era un bel trabiliato, io in macchina dice, ti ascolto bene veramente, e mi stavo divertendo ieri. Ma se tu vai sul 30 sopra, sei già un bel fuori. Perché se sul 5 ancora ma il 30 è un bel avanti Roberto Quadrato. Ehi, comunque ho sentito il discorso vostro, volevo aumentare il numero dei canali e portarli a 120, perché legge europea, la Commissione europea, già in Spagna lo stanno attuando questo discorso, portarli a 120 canali, aumentare la banda dei CB. E sempre che valga anche in Italia, o sbaglio? Sì. Sì, ci dovrà adeguare anche l'Italia, anche per questioni di apparati, no? Perché c'era un sacco di giri di coso per il fatto delle frequenze, cambio frequenza. Alla fine hanno detto siamo tutti in Europa, lo stavo leggendo su un coso, su un sito spagnolo, proprio della ministeriale della cosa, della Spagna, e hanno già inserito nel coso, hanno fatto questo decreto dove è stata ampliata la cosa della banda dei CB, portata sino adesso al 120, non mi ricordo a che cosa corrisponde di frequenza, sembra sia 27,8, 27,9, adesso non vorrei dirvi fesserie, però hanno già aumentato il coso e sicuramente tutti i paesi della comunità europea dovranno essere unificati. Non puoi tu andare per dire chi c'è, Portogallo c'è 27,200, andi in Spagna viene un'altra, andi in cosa, in quei paesi dell'est ce n'è un'altra, tutti, per cui hanno deciso di farla tutta unica per tutti e tanto per quattro gatti che vi so. Dammi la spugnetta, Gianni. Cosa? Spugnetta dammi. Ma vuole dire quelle spugnette, quelle che ci mettono nella testa del microfono? Eia. E dove si comprano? Nel biciclo. Biciclo? Ma dove, dove vengono gli articoli musicali? Vuoi fare le chitarre? Prende musica. Esatto, sì. Solo che nelle mi sa che non hanno più, quella che sono di due misure, quella per l'MB più 5, l'MB più 4 e quella più stretta. Ok, ho capito, allora se hai capito da quale parte me la compro una. Tu cos'hai preso già, quella più stretta o quella più larga? Quella più stretta per l'MB più 5 e quella più larga per l'altro microfono. Ah, ecco, perché c'ha la, diciamo, circonferenza più grande, dai. L'MB5 è calca proprio giusta. Era anche Gianni di Chiaramonti. Avanti Gianni, sì. E adesso ti ascoltiamo anche bene. Perdonami Gianni, mi sono dimenticato io. Dovevo chiederti venia. Gianni, sono qua, buonasera, se mi ascolti. Ah Gianni, a Chiaramonti proprio sei o in giro? Gianni, ho detto, sono B2. Ma c'è movimento? Ehi. Ma perché mi fai uscire lo Smith, è una cosa allucinante, buf. No, è positivo già, minchia, davvero, non ci avevo fatto caso. È attaccato, non avete capito. Sei attaccato per quello che dai picchi positivi. E a voi che ti sento, forte e chiaro. Ma da 7 a 9 già, ne abbico che vai. Ma vai tu. Ho cambiato apparato, mi ascoltate a me. Dite un mio caro, forte e chiaro. No, negativo, già negativo, era stato per sapere perché mi oscillava lo Smith, capito? Così una curiosità, però io ti ascolto benissimo. E io volevo dire a Roberto Quadrato, si fa due controlli. Vedi la differenza, anche giustamente siamo abbastanza vicini. Di radio o di segnale? E uno e l'altro, vedi un po' adesso, come ti arrivo. Più 20. E invece adesso aspetta, così invece come ti arrivo? 9,30, quanto ne stai andando per curiosità? 110 e 80 a portante fissa adesso, sì, 80. Che cos'è, ti ha fatto questo? No, questo è il Galaxy, devo regolare qualcosa? Aspetta, la modulazione non l'ho sentita, un secondino, che così ti do anche il controllo delle modulazioni. Vedi un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dimmi un po' se devo aumentare o diminuire qualcosa. Qui l'unica cosa che posso regolare è il mic gain, sia dell'apparato che del microfono lo stesso. Il mic gain bene, teoricamente potresti sollevarlo un po'. C'è ancora dei margini di sollevamento. In modulazione sempre, no? Aspetta. Guarda così a 3 e così l'ho messo a 5. Cambia qualcosa? No, quasi niente è cambiato. Riprovo a parlare, rimani però una messa su condizioni di distanza e direzione, cioè un'età sempre la bocca nella stessa direzione e alla stessa distanza, e poi facciamo i confronti sul veloce sale. Perfetto, guarda, vedi un po', così a 5, aspetta, Guarda così lo sto mettendo a 9. Provo a parlare però, fammi un passaggio più lungo. E io vedi un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vedi un po', dammi un tuo giudizio. Ma questo cos'è, un MB più 5 o più 4? E più 4. Cioè, sempre col solito problemino, ma questo non è stato modificato il microfono. No, sempre originale. Perché è leggermente metallico, cioè predominante di tonalità medie e medio acute, diciamo. Leggermente un po' ti mancano un pochettino di bassi e un po' pochettino di acuti avresti voluto per essere perfetto. Però va benissimo, la radio chiara, 5 è piena, non ti do nessun altro corso di negativo. C'ha sempre quel piccolo difetto di metallico, Adesso ho rimesso di nuovo a 3, come lo metto sempre di regola. Ho capito. Va bene. Comunque va benissimo, chiara la modulazione, è bella, niente da incentivare. Se vogliamo essere più, ho dato delle cose più precise. No, no, cioè sì, meno male, ho sempre sentito che l'MP più 4 ha dato sempre questo piccolo difettuccio, sicuramente la capsula. Poi non lo so, modificando così ti toglie questa imperfezione. Allora, all'interno dell'MP più 4 o più 5 o più 9 c'è una frangia metallica. Molti la tolgono, con la metallica ne mettono una in plastica e l'ideale è trovare un pezzo di sughero o qualcosa del genere che è isolante al massimo. Oppure se non la vuoi togliere, che ti serve come appoggio per la cosa, per la capsula, li metti dell'ovata all'interno, senza tapparla però naturalmente la capsula. E vedi quell'effetto metallico, sembra che stai parlando dentro una sola piazza del latte, molto, cioè, un effetto di riflessione molto molto evidente, però si può eliminare con quel discorso lì, o toglierla direttamente e metterci un coso, un pezzo di plastica, un anello di plastica o in sughero, oppure mettere la lavata tutto in giro, stando attento a non sporcare l'inclinazione della cosa, della capsula, perché è abbastanza direttiva, se la inclini troppo ti toglie molti degli acuti. Ma diciamo, io questo lavoro dell'ovata l'ho fatta 2 giorni dopo che l'avevo acquistata e via. Aspetta un attimo. Sì, no, l'ho fatto, l'unica difficoltà credo che bisogna fare qualche modifica all'interno del circuito. No, per il fatto del microfono l'ovata l'avevo c'è già, anche in questo momento giustamente. Scusa, l'ultima prova mi fai quella attaccata e staccata, vediamo se ti cambia anche la modulazione, quella è la cosa più importante, vediamo se sta attaccare e poi mi dici questa è attaccata, vediamo se ti cambia anche la tonalità, un attimino. Ha attaccato in senso di amplificazione? Di amplificazione sto parlando. Ecco, guarda, così è spento però conto sto usando il Galaxy e poi ho il 68, sicuramente qualcosa cambia, così sono staccato. Come i due rapporti, allora mi dai così attaccato e così staccato, è vero se ti attengono ti aumenta delle tonalità, prova un po'. Ok, vedi un po', 1, 2, 3, 9, 3, 9, 3, in questo caso è staccato, ecco qua, 1, 2, 3, 9, 3, 9, 3, adesso sono collegato, vedi un po'. Ma no, quasi niente, appena un po' di medio basso, intanto, ma è una cosa impercettibile, proprio manco si vede, dai, non cambia niente, per cui quello è un punto a tuo favore, la modulazione non è modificata, perché molte volte quando attacchi, e ti tira un po' di coso, ti toglie o ti esalta delle frequenze. In questo caso è tutto ok, non ti posso dire niente. Antone, se vuoi che esca perfetto col microfono, basta che vai al mercato delle pulci, ti compri un Sirio, un telefono Sirio, e li metti la capsula col telefono, poi mi dà la risposta. Si può anche fare con la prova, perché no? Vedi un po' adesso e poi vi lascio le palle in pace, giustamente ci sono anche gli altri. Adesso ho cambiato apparato, prima stavo usando il Galaxy, adesso il 68. Quella differenza c'è sempre, sì, con la parte metallica. È un po' più cupo questo microfono, però leggermente più lineare, con la modulazione lineare è più esaltato, tonalità media. Qua un pochettino più cupo di acuti, però è un po' più lineare con la modulazione. Comunque tu scegliendo quelle ti piace di più? Le prove, vabbè, adesso non le ho memorizzate bene, se vuoi fare una prova veloce, se riesci a farla, ti lo posso dire, perché adesso non ce l'ho l'orecchio a memorizzarlo. Vabbè, adesso guarda, adesso veramente c'è già l'orecchio abituato alla prima modulazione, stavo usando il Galaxy, adesso ho collegato il 68, il Midland, sempre con il MP 4 perché ho solo questo. K. Ma ti faccio dire, Antonio, c'è un po' per sapere la differenza. Ehi, aspetta che sto staccando. Vedi un po', adesso ho collegato direttamente il Galaxy, no aspetta che l'ho toccato, aspetta, fanculo, è qui, adesso ho collegato il Galaxy. Aspetta, forse è più piacevole come modulazione, dai, un pochettino più bassa però. Passa come radio, vero? Sì, come mai, ma poco fa di più alto, cosa hai toccato? No, ho regolato adesso, aspetta un attimo. Oh, vedi un po', dovrebbe andare bene adesso. Ma tu mi hai detto che sei tutto al massimo, c'è apparato che il mic gain del microfono, sei tutto al massimo. No, l'apparato, il Michigan dell'apparato è sempre al massimo, invece dell'MB più 4 è a 3. Basta, mettimolo al massimo completamente, così vediamo un pochettino se satura. Così sono al massimo. Questo è tutto a manetta, sia uno che l'altro, l'apparato e il microfono. Ma sei sicuro che sta amplificando quella roba? Boh, quasi niente si nota la differenza. Boh, può darsi che c'è anche la batteria scarica, è possibile, ce l'avrò minimo un anno e mezzo sotto. Io lo dissi anche a me l'altro giorno, mi avevo lasciato una volta acceso il microfono e l'M600 mi ha buttato a terra di un volto la batteria. Prova a cambiare la batteria, mi sembra strano che non si nota quasi la differenza. Confermate voi, Gianni, hai notato differenze tu? Io almeno l'ho fatto mentalmente, non ho visto differenze. Sì, è così Antonio. E probabilmente la batteria. Io l'altro giorno, sai che cosa ho notato? Che quando parlavo con l'altro apparato, e l'MV più 5 si muoveva la lancetta e ho detto, ma che cavolo, non è spento tutto. Infatti vado a guardare ed era spento l'apparato, però c'era la portante inserita, capito? E buttatela le batterie, io questo cacchio di M600 adesso devo togliere, dove c'ha quei tastini quadrati piccolini, cacchio. Molte volte come lo colichi, con lo schiacci si rimane puntato. E va bene che c'è l'interruttore on off, però la volta me l'ho lasciato acceso, c'era il LED acceso, noi l'abbiamo fatto la mattina, mica c'è, ti sei lasciato qualcosa di acceso, c'è una luce verde, sono andato per un baracchino, e me la buttate una volta a terra, mentre nell'M93 io ce l'ho 4 anni la batteria, mai scesa, sta sempre andando. Sulla 48, io se adesso vado trasmette bene, mentre gli le butta a terra è una cosa impressionante, e adesso c'è un circuito che assorbe parecchio. Sì, ma la 93 non lo usi sempre, dai. Io lo uso sempre già, però è sempre attaccato, cioè un po' di perdita di corrente di scarica c'erano le batterie, anche se non le usi. L'ho usato però per 4 anni, per dire 10 minuti oggi, 10 tra un mese, quando ero giù al mare l'ho tenuto per 2 mesi sempre acceso, non dico tutti i giorni, però lo accendevo parecchio, invece boh, sempre a verde. Su questo cavolo di Intec invece, se te lo lasci acceso te la butto a terra, mi è capitata già 2 volte che questo ho fatto, le butto a terra in una maniera impressionante. Così il tunnel lo stesso me la tiene molto in carica, probabilmente sono circuiti più efficienti, non sono come questi cacchi delle Intec. Vabbè, diciamo che io l'MV più 5 e anche un anno e mezzo come tempo medio l'ho avuta la batteria, quindi... figurati che ci avevo l'altro da Palmo che mi consumava le batterie ogni mese, dovevo stare a cambiarla, confronto un anno e mezzo, penso che ci sia la differenza. Ma questo è capo, già. Stanno bene, dai. Va bene, sono bella tranquilla, la voce pulita. Ok, cosa volevo dire? Volevo parlare con l'amico di Chiaramonti, non ho capito se era in movimento o se era a casa, se c'è ancora avanti già nella Chiaramonti. Volevo capire, mi pare tu invece un controllo di segnale lì da quelle tue parti, visto che non è che parliamo frequentemente con Chiaramonti. Sì, io sono sempre qua, Sì, c'era B2, infatti li volevo rilanciare il mic, scusa un attimo, B2, no, volevo dire, da parte mia tu stai andando benissimo come modulazione, molto buona, pulita, non ti posso dire niente di male, il segnale è Santiago 8, ti ascolto perfettamente, per cui non ho niente da eccepire da parte tua, stai andando benissimo, considerando che mi hai detto che sei in condizioni un po' non ideali. Avanti B2, tocca a te, piano con Eugenio che preferisco Eugenio, dai. Dai, così approfitto per salutarti che vado a far lavorare i denti. Ciao a tutti, dai, ci sentiamo domani o più tardi, non lo so, adesso vediamo. Ciao e buona cena a tutti, ciao ciao. Ciao Eugenio, dai, buona carica anche a te, dai. E anche le mascelle fai lavorare. Le mandibole. KK, avanti Antonello per i saluti. Ciao B2, appetito, ci sentiamo alle prossime. Che riprendere così saluto sia uno che l'altro. Ciao Eugenio, ben sentito, buona carica e buon tutto. Idem compattate anche l'amico di Chiaramonti, il più lontano. Ciao ciao, ben sentito e buon diciamo, buona giornata per domani. Avanti Gianni che farei girare per gli altri. Io. Che dire. E allora Antonio, ti stavi divertendo l'altro giorno, ma potevi avvisare che sarei entrato anch'io sempre che si possa entrare. Sinceramente già, ma questo era ieri sera verso le 10, io ho acceso verso le 9, non c'era nessuno, 9:30 ancorato, ma è nessun QR, metto proviamo a girare, giro, faccio un giro di canale e me li ho beccati, lì bella retro già. Poi ripeto, questo qua in macchina, in BM, lì in giro per le Canarie, ed era proprio strabiliante, c'è un accidente, arrivo bene in macchina e tu li va bene a me. È durato una decina di minuti, dai, sul canale 30, e poi sono andato sull'11, anche lì lo stesso, una bella passata. Ma questo non c'era nessuno, ed ero lì in solitario, mi sono divertito. Vabbè, invece io l'altro giorno, facendo un ascolto con il ricevitore, ho sentito praticamente una simulazione di soccorso di radioamatori. Bella fatta. E quello che ti avevo detto io l'altra volta, ha detto alle prefetture, quella delle prefetture ha sentito quelle così di solo di una regione? Tutta Italia. E quello delle prefetture, quello è interessante perché poi ti rendi conto se sei ascoltato, non hai visto cazzo. Molte volte tu senti cose che loro non riescono a sentire per dire in certe altre parti d'Italia. Qua in Sardegna su quel tipo di bande siamo molto, nelle feste siamo molto favorevoli con la MAT, ma non me l'aspettavo neanche io, infatti pensavo ci fossero antenne dedicate. Sentivo gente che dice no io non l'ascolto, non... e io sentivo Santiago Rombe, segnale fortissimo. Sì, sì, la matto qua mi faceva sentire a tutti molto perfettamente. Bene, bene, bene, veramente. Mi è piaciuta la situazione, mi ha intrigato, tanto è vero che ho telefonato anche a parola e ho detto ascolta anche tu, non è che è bello questa simulazione e cosa. Poi Antonio sicuramente è arrivato alla fine, è vero Antonio? Esatto, ci è rimasto pochi minuti, sì, è proprio così, certo. C'è sentito un tipo e ha fatto l'attivazione dell'isola di Mosta, non so neanche dove cavolo si trova, deve essere qualche scuglio, devo cercarlo su internet, sulla banda cittadina, un po' più su da, era un pochettino spostato in su, e c'aveva l'antenna di quelle a canale a pesca, stava usando un 706 della ICOM e ci siamo sentiti, beh, sto attivando quest'isola di Mosta, mi ha detto qualcosa, era in banda laterale però. Non hai capito dove era, almeno i pesci. Devo cercare su internet, ma lo sono scritto, siccome io mi faccio la specie di book di stazione molte volte, le cose interessanti me le scrivo, a che ora l'ho sentito, Santiago, eccetera, eccetera. E me l'ho registrato, c'è anche il nominativo, mi ha detto mandami la QSL, perché la QSL, perché era un radioamatore, mi ha dato il nominativo, io purtroppo non potevo entrare, non potevo fare niente. Però era una banda sulla 27, un pochettino appena più su, dai. Ah, vaga, vabbè, andare, vabbè, tutto fa bro, a chi piace intriga abbastanza, io a me piace molto fare ascolto, mi rilassa molto, specialmente quando sento queste cose di soccorsi, a me, io lo sai che ho sempre fatto questo tipo di, diciamo, di volontariato, sempre soccorso alpino e coso, abbiamo fatto un po' di tutto là, abbiamo fatto antincendio, soccorso stradale, calate anche in corda doppia a volte quando c'è stato bisogno, quindi ho sempre fatto questo tipo di soccorso e mi intriga ancora di più. Ascoltare anche altre cose, anche cose particolari. Io non so se tu le hai mai sentite con le stazioni, come si chiama, segrete, diciamo, che dicono sono segrete, si dice, almeno ci sono tante leggende metropolitane, ho guardato anche su YouTube proprio per avere le cose. Comunque ho guardato anche con la diamatura, qualcuno di loro l'ha ascoltato, quelle stazioni che mandano segnali ripetitivi in codice numerico, quelli dicono 14, 15, 31, 41, e c'è una voce che ripete sempre tutti i codici e si dice che sono i codici di un alfabeto, diciamo, segreto di queste spie, di segreti di nazioni, anche se adesso è molto più raro, prima dice negli anni 80, se la quando c'era la guerra fredda, li sentivi più spesso, erano in inglese tra l'altro, trasmettono questi qui, erano dei numeri, stazioni a cosa, a numero, numeriche, a numero, come si chiamano, questi numeri così senza nessun significato, che sono ripetitivi, dite, ma cosa stanno dicendo? E tu per dire, senti, 4, 3, cioè qualunque numero senza nessuno scopo, ed è su frequenza pare sia sui 3000 spiccioli, e ho letto, mi sono informato più su internet, ho letto che questi possono essere delle stazioni di questi agenti fuori dalla cosa, dalla nazione, per dire agenti, dico russi, dei servizi russi o come si chiama, israeliani o cose del genere. Vabbè, io non so se dipende da me, ti voglio dire, poco fa poi ho pensato che fosse disturbo della radio e cosa, Sento delle scariche quando parli. Sì, è vero, me ne sono accorto io. Certe volte lo fa questo qua, ripeto, dovrebbe risistemato qualche condensatore piano piano, infatti anche quando l'accendo tarda un po' a partire, rimane, c'è un mira subito la portante, poi come si stabilizza termicamente deve esserci qualche componente in perdita. E anche qualche ricezione molte volte scarica. Certi giorni non me lo fa per un mese, poi c'è oggi per dire me l'ha fatto subito. Allora non dipende dalla... Io all'inizio pensavo che fosse qualche scarica che ci fosse nell'aria, roba del genere, però poi ho visto che solo quando parlavi tu lo faceva. No, sono io, non vi preoccupate. Ok, facciamo riprendere gli amici, gli altri che sono rimasti. Allora, B2 è andato via, Gianni è andato via, sei rimasto tu e Antonello da Ossio. Oditi, di cosa ricorda Antonello? Sempre Ossi. Anzi, aspetta un attimo di regolare una cosa. Sbagliato, aspetta. Ok, sì. Ti volevo chiedere, ma bene o male una batteria da 9 volt nelle MB più 4 fa con la mia, quanto potrebbe durare? Un annetto buono, sì. Sì, può durare anche un annetto. Adesso ripeto, vabbè, MB più 4 me l'hanno dato uno dei primi microfoni che ha avuto da tavolo, l'aveva dato Claudio, appena aveva piazzato la stacca me l'aveva dato lui, nuovo, mi è durata più di un anno la batteria, però lo stesso microfono magari lo metti su qualche altro apparato, non lo so, forse c'ha qualche assorbimento, non lo so, e assorbe di più. Ecco, no, ma per dire, strano, perché mi ricordo l'anno scorso quando abbassavo o diminuivo, c'era la differenza, quello che dicevano sempre, abbassa che si è troppo amplificato, può darsi che veramente la batteria vada sostituita, ma bene o male poi alla fin fine quando è scarica comincia a trappare di regola, giusto? Sì, a pannacchia, a gracchiare piano piano, ma io ti dico, stai usando perfettamente, mai uscissero tutti come esci tu, niente da dire, diciamo c'è qualche durato un po' pochettino più forte, pure dopo siamo abituati a fare combattimenti, se uscissimo tutti tranquilli sarebbe anche molto meglio. L'ho sempre detto la niente, purtroppo succede che qualcuno esce più forte di radio, allora gli altri per adeguarsi sono di iniziare a alzare, abbassare il volume eccetera eccetera, e succede questo fatto, se no niente da dire, sta uscendo benissimo come livello, va benissimo, però teoricamente c'hai margini di miglioramento per uscire ancora più forte e rientrare nei limiti di saturazione, della saturazione. Ecco, no, per quello non mi interessa, ma più che bene così, basti che faccia piacere, la modulazione non dia fastidio, però bene o male io poi tempo un po' di anni fa ero sceso lì da E3 Musica già e ho visto dei bellissimi microfoni, mi ricordo prima erano 59, 9, 300, c'erano un sacco di microfoni, diciamo dal più semplice al più professionale, e anche il più semplice neanche di marca, mi pare il minimo che costava era un 59 euro, partiva bello grigio, sarebbe bello che si potessero abbinare per dire anche all'MB più 4 con circuito amplificato e di una bella modulazione, poi giustamente bisogna rispettare i parametri dei microfoni, non il valore degli apparati, qual era il valore? Io non ricordo più. Poi di che cosa? Il valore del microfono in ohm, quant'è? 4 ohm era, adesso non mi ricordo quant'erano per gli apparati, per i baracchini. Non me lo ricordo manco io, lo sai. 50 ohm mi pare. La cazzo deve essere 50 ohm, giusto? Mi sa di sì. Aspetta, lo dico con sicurezza. Che se ci sono lì dei microfoni con quel valore, sai, un pochettino più professionale, sarebbe bello sperimentare, adattare quei microfoni lì a questo circuito, per dire che si sta utilizzando adesso amplificato come l'MB più 4 più 5. Vedi oggi, anzi no, Roberto, fai girare, non mi ricordo chi sia adesso. Sono entrato, no, mi sono fatto un attimino. Allora, chi è rimasto qua su questo canale già? Antonello, il tuo, non mi sa che non c'è nessun altro. Mi siete sovramodulati, cosa hai detto? Antonello, il tuo? Non ero nessun altro, perché oggi è andato a mangiare. Non ho più sentito coso, già da qualche giorno, Luca, Claudio lo stesso lo sento meno, e che era l'altro, che entrava abbastanza spesso, ce n'era un altro coso, mi sa Gianluca. Già è entrato Gianluca, è in diversionale sicuramente per il lavoro, però già c'è quasi sempre, sempre sul 12. Era l'amico Grobbe. Poi mi avevo chiesto alle antenne, si è trasferito. 500 ohm, avevo ragione, là. A 500 ohm, ok. Che cosa ci faccio attorno? Capsula dei microfoni che devi giustamente abbinare a qualsiasi apparati, no? Siccome 3M Musica vendono dei microfoni abbastanza professionali, sarebbe bello abbinarli per fare un piccolo esperimento, togliere la capsula per dire l'MB+4 e utilizzare uno di quei microfoni che trovi lì, quei negozi di musica, giustamente rispettandoli 500 ohm. Guarda, io ho provato addirittura con uno di quei microfoni, c'è presente quelli da computer che c'hanno la pinna flessibile, l'ho messo su un altro microfono, su un palmarino, e ho fatto differenze sensazionali, nel senso molto molto evidenti rispetto al colpo. Dipende, non è obbligatorio per dire, anche se 500, io per dire, sull'MC60 c'è una modifica che ce l'ho già pronta, però per il momento non la faccio, di un microfono RCF professionale che è uguale alla testa, è precisa a quello dell'MC60, quello addirittura è da 200 ohm, si mette, me lo sta dicendo Gianni Giovanni Riccoso, dici di cosa fare eccetera eccetera, perché lui l'ha già fatto e lo migliora tantissimo la modulazione dell'MC60, toglie quei piccoli difetti, te li compensa con qualcosa, abbassandoli appena appena l'interesse, mettendo un paio di componenti, c'era un condensatore e poi un'induttanza si metteva di coso in serie, adesso non mi ricordo, ma l'aveva fatto lo schemino, me l'aveva mandato. Naturalmente non devi mettere cose con impedenze troppo basse, se no c'è il rischio che bruci lo stadio di preamplificazione dei microfoni. Dunque alla fine puoi andare da 500 in su senza avere nessun problema, giusto? Qual era la favola? Dunque se puoi scendere da 500 in meno, dunque sono questi problemi? No, diciamo, l'ideale è mettere quella che è data per quel tipo di coso, di apparato, normalmente sono 500, però se tu per dire ne metti una 150, devi stare attento, è come un amplificatore, che li metti, un amplificatore parliamo domestico, che diciamo l'impedenza è dai 4 agli 8 ohm, se tu per dire li metti delle casse che hanno un'impedenza più bassa, fai scaldare di più i finali, magari ti dà più potenza l'amplificatore, però fa scaldare i finali e ti col tempo si possono creare dei problemi, per dire se non è predisposto per scendere per quei carichi così bassi. La stessa cosa è per il fatto del coso, salire più sale di impedenza e teoricamente aumenta, diminuisce anche la forza, la potenza di emissione di quel microfono, però ci sono delle capsule magari più efficienti, magari c'è un'impedenza da 5 come un altoparlante, che in parole proprio la capsula microfonica fa lo stesso principio dell'altoparlante, al contrario, anziché emanarla l'aria la riceve quando parli, però il principio è lo stesso, un componente, come si chiama, elettromagnetico, dove c'è un circuitino, c'è un avvolgimento, un campo magnetico, punta al contrario dell'altoparlante. Per cui ci sono quelle capsule un pochettino più efficienti che magari parli a mezzo metro e si sente più di quella che parli a 30 cm. Bisogna fare delle prove, diciamo. La cosa migliore è provarle, così ti rendi conto. Di quello pienamente d'accordo, il discorso è che anche bisogna, alla fin fine c'è poco da fare, adeguare il microfono, diciamo, alla tua voce. Alla fin fine il segreto è quello, ma sono diverse prove, dunque dovete avere diversi materiali, porca miseria, c'è una bella spesuccia per arrivare tra virgolette alla perfezione, no? Per modo di dire, alla fin fine devi sempre per forza acquistare, essere fortunato che ti vada bene per la tua voce, oppure sperimentare sempre per migliorare. Sì, quello è vero, mettiamo, quando compri quei microfoni dei cinesi non è che costano molto, sono bei microfoni, almeno esteticamente, pure le capsule hanno sempre curve, che li trovi da 5 euro, 10 euro massimo, io ho visto tirando anche i radiomicrofoni a 15 euro con la centralina, ti danno due microfoni, però c'è sempre da dire una cosa, ricordiamoci che la risposta e frequenza dell'apparato sulle bande in AM è da 300 a 3000 Hertz, per cui è inutile che tu metti un microfono di quelli professionali che fanno da 20 a 20.000 Hz, tanto più di quella frequenza lì non puoi andare di emissione, da 300 a 3.000, oltre quello non puoi andare, perché è successo, te lo dico con esperienza, io ho un microfono della Shure professionale che costa una barca di soldi, l'ho provato con un mixer collegato qua direttamente al baracchino e era una cagata, cioè uscendo pulito senza equalizzazione, mentre un microfono di quelli economici della Monarch che costa un quarto, per non dire uno di quello lì, usciva molto meglio perché aveva una risposta per questa più adatta per quel tipo di coso di emissione in AM, mentre lo provi così, quello con la voce era una voce metallica, uno schifo, se lo provi per dire in un impianto hi-fi, mentre quello della Shure lo provi e ti dà la tua voce come natura, per cui voglio valutare fate di volta in volta i corsi. Come quando tu c'hai un concerto, c'è il microfono per la chitarra che ti risponde per quelle frequenze lì, il microfono per la batteria ti utilizza un'altra frequenza e poi c'è il microfono per la voce. Idem qua, però qua siamo limitati dalla risposta dell'apparato che va da 300 a 3000 Hz, oltre di quelli non puoi andare, anche se li metti il super microfono che arriva fino a 20.000 Hz, tu oltre i 13.000 non ci puoi andare. Giustamente poi anche chi riceve dipende giustamente anche dall'apparato in cui ha, non è sempre ti dà la massima fedeltà, è vero, sono tante cose da valutare, quello è vero. Sarebbe opportuno che tutti avessero lo stesso apparato, allora il discorso cambia. Sì, pienamente d'accordo. Ah, in FM teoricamente riesci a prestarlo un po' di più perché è leggermente più ampia la risposta della trasmissione, diciamo, la risposta in frequenza del segnale di trasmissione FM è un pochettino più ampia, per cui teoricamente a parità di coso, di apparato, di microfono in FM teoricamente dovresti andare meglio. Comunque non è comprare quelle cinesi che ce le ho io le capsule, ma sono ben mani, Guarda, già ne ho preso uno, come hai detto tu, da un telefono, da un Sirio, e tipo su lì andava anche una bomba. Poi ho provato uno cinese ed è andato discretamente anche quello. Il Sirio, quello del Sirio io me lo sto fatto regalare, il Sirio, da un amico, cioè, lo stavo comprando al mercato dei Pucci, voleva 5 euro. E questo amico mi ha detto, non lo comprare, mi ha fatto il diucchio, no? Guarda che ce l'ho io a casa, che te lo do io, lascia perdere, non è comprare. E me l'ha regalato lui e gliel'ho tolta la capsa, poi adesso ci ho buttato tutto e adesso bene o male adesso lo voglio fare la prova, però mi sa che non devi più 50 la capsa, si debba fare qualche cosa. Bisogna fare delle prove già, così prova, Luca era un esperto in materia. Ne fai qua la prova in AM e metti poco processore senza, e sempre parlando continuamente. Prova, 1, 2, 3 e così è finito. Così si nota la differenza, fammi un passaggio un po' più lungo però già. Così è disinserito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e così è finito. Qua voi la si sente la differenza, addirittura è anche meglio col processore, più chiara la modulazione, già lo sai. In FM stranamente non si sente la differenza, non insisto perché non sono esperto di 140, però bisognerebbe chiedere se funziona anche in FM il processore, ma penso di sì, una cosa dovrebbe funzionare in tutti e due i coso. Lo squelch in coso in AM non funziona a 140, quello lo so. Ok. Ora tu sai invece? Vediamo un attimino. Ok, va bene? Fare prova, sa, dimmi, inserito e disinserito, parlando. Ok, allora, vediamo un attimino. Adesso è inserito. Adesso è inserito. Si vede il cambiamento? Me ne accorgo anche io, da qui. A voi, la ragione alla notte cambia. Guardate a me adesso, questo è inserito 1, 2, 3 prova radio, questo è disinserito, lo stesso apparato col processore disinserito. Questo è di nuovo inserito 1, 2, 3 prova radio. Si nota. Si nota il cambiamento, Robè, c'è voglia che si nota. Però, è strano. Le stesse funzioni lì da Gianni dovrebbe averle sia in M che in FM. Poi, non lo so. Non è così, Sandro. Non so per il processore, però per dire in AM non funziona lo squelch. Lo squelch in AM non funziona, funziona in FM e basta, dal 140. Invece nel 440 funziona in tutte e due le frequenze. Sì, lo squelch va bene già, però il processore non lo so. Bisognerebbe chiederlo a chi lo conosce. Allora, sul 44 lo squelch funziona tramite RF gain. Devi abbassare RF gain e incidi lo squelch in AM. In FM porti a zero RF gain e lavori solo con lo squelch. Sì, ma nel 140 proprio non c'è lo squelch in AM. Ma non lo so. Non lo so, non voglio insistere, però non lo so. Insisto perché lo so. Kappa. A volte anche lei. No, bene, non male, sì, la differenza c'è. Anche in AM. In FM lo stesso la percepivo anch'io quella di Gianni, forse siamo più in vicinato, non so cosa dirti. La sentivo la differenza quando toglievi il processore o lo inserivi in FM? corso, l'interesse a te che vi siete te chiaro, anche se rimane inserito e non disinserisce non mi interessa, perché tanto secondo me la funzione che hanno fatto di disinserire lo il processore per me è una funzione inutile, perché per dire Roberto senza processore non esci blu più, è basso basso, e cosa lo fanno a fare? E invece mettere il processore è normale la modulazione, quindi cosa sta a fare? Quello già è vero, lo sento molto bene a Roberto col processore, però già questo te lo devo dire, in FM sei uno spettacolo, ti sento veramente bene, in FM con quell'apparato è una meraviglia, lì non c'è, guarda, nessuna differenza, nessuna imperfezione, sei limpido come l'acqua. Aspetta un attimo. Perché qua non esco male, Antonio, mi sono ascoltato alla radio. Marco, vai! No, forse sei tu che mi ascolti male, perché Robe, come esco io secondo te in AM? No, esci bene, sono corretto già, niente da dire. Però ho notato che, vabbè, questo fatto del processo da te non funziona in AM, in FM. Quasi che su quella mano dubito, sinceramente, è meglio informarsi, ma non c'è Claudio, glielo chiediamo a lui, che lui è più esperto. E lo scuola ci so che funziona solo in FM, al contrario del 4.4 che funziona, però informati bene di questo fatto qua. Poi c'è da dire che molti di questi apparati vengono toccati, fatti delle modifiche eccetera eccetera. Io il mio l'ho preso, l'ho spedito, gli ho detto rifatemi, rimettetemelo tutto come era originale, tutto quanto, senza, e l'hanno fatto, probabilmente pure per quello che c'ha delle cose, degli inserimenti di processori diversi da quelli che può avere Alessandro, non so cosa abbiano fatto nel suo o tu. Allora, Roberto, tu stai usando il 44? Via. Ok, perfetto, va bene, evidentemente c'è qualcosa di nuovo. Allora, guarda, questo che ho io, che sto utilizzando attualmente, c'ha circa un 3 o 4 mesi che l'ho mandato su da Bianconi e me l'ha tutto riallineato. Infatti ha cambiato perché c'era un problema sull'oscillatore. Oscillatore e poi, diciamo, altri vari componenti. Quindi poi l'ho riallineato, diciamo, in origine. No, se l'ha fatto Bianconi sei sicuro che è fatto a regola d'arte, perché ne ha visto migliaia di quegli apparati lì, ormai non dico che li faccia a mano, ma c'ha tutte le attrezzature, tutte le strumentazioni che non può sbagliare, per cui tutti i valori sono fatti a corso. Poi è un super esperto, per cui siamo sicuri che tu è a posto. E appunto per dirti diciamo che diciamo sono sicuro, addirittura è ancora in garanzia, perché lui tutti i lavori che ha fatti da 6 mesi di garanzia, e quindi diciamo perlomeno fino adesso diciamo fanno lo sempre perfettamente. Cioè, io logicamente il 140 non lo conosco, quindi non voglio insistere diciamo su quel fattore diciamo dell'inserimento e disinserimento in FM diciamo del processore, e quindi non insisto perché non lo conosco. È che non c'è nessuno oggi che ci può dare delle informazioni, se ci fosse stato Claudio magari ce lo dice là, sicuramente. Quello non sono sicuro manco io ho detto solo dello squelch, cioè, può darsi che sia anche quello così, non lo so, non sono sicuro comunque nemmeno io. No, ma magari c'è da dire già, se hanno fatto qualche lavoretto di apertura di alici o cose del genere, diciamo per uscire più forte, molte volte viene escluso in automatico, non lo so, io non posso dire niente perché non so come lavorano quei tipi di apparati e non ho conoscenza in materia. C'è possibilità che magari quando è naturale funziona e quando è stato fatto certi altri lavori non te lo dà in automatico, fisso e non si avrebbe registrabile. Perché c'è una modifica per dire sul 140 e sul 440 che tocchi, come si chiama, c'è un diodo all'interno del coso, dell'apparato, l'ho visto su internet, tu lo tagli questo diodo e ti dà la possibilità di regolare la potenza in banda laterale, perché se non tagli non si può regolare la potenza in banda laterale di questo tipo di apparati fissi alla potenza. Se tu fai quella lavoretto lì puoi regolare la potenza come quando la utilizzi in AM o in FM. Ok. Dimmi, scusa un attimo. No, ti ho detto se cambia adesso, ho cambiato anche la modulazione. Adesso diciamo non l'ho memorizzata quella di prima, questa è un pochettino più, come si chiama, più, ripeto, una vita media, adesso all'orecchio, poi vabbè, poco fa, forse ti ascoltavo diversamente, dai, non posso dirti niente, dovresti fare di nuovo i due confronti, non li ho memorizzati almeno mentalmente. Ok, allora vediamo un attimino, vediamo un po' questo passaggio qua, adesso stacco un attimino e riprovo. Allora, questa modulazione è buona, ti posso dire che è buona, almeno a livello di tonalità. Ok, adesso sono passato all'altro, diciamo al 60. Sulla stessa parte hai cambiato microfono, cosa hai fatto? No, ho fatto due passaggi, questo è il 60, ok? Allora, memorizzati questa qui, questo è il 60. E poi? Ok, adesso vedi un attimino questa qui, cosa cambia? È più chiara, anche se quella lì è più forte, l'MC60 è più limpida. Allora, la differenza di tonalità è che questo qua ha più predominanza di tonalità medie e un pochettino più di acuti, leggermente più lineare come modulazione e leggermente più forte. Il 60 è un altro tipo di modulazione, può piacere anche al 60, dipende dai gusti, però è leggermente più cupa, c'ha meno tonalità acute, però è più rilassante come modulazione, più casalinga diciamo. L'altra, questa qua sembra più da combattimento come tipo di modulazione. Sinceramente mi piace più il 60, anche se questa qua come linearità di modulazione, quest'ultima che ho usato è più lineare, dai. Posso dire la mia? A me l'MC60 è tre volte migliore dell'altra, è più pulita la modulazione, l'altra è più sporca come modulazione, anche se è più forte. Antonio, avanti. Bello, dormito di sì. Vengo subito, aspetta, sto chiacchierando un attimo con mia figlia dei compiti. Ah, fai allora. Capito, Roberto, secondo me è così, l'MC60 è molto più pulita come modulazione, l'altra è più grezza, anche se più forte, più da combattimento, ma è più grezza. Sì, sì, confermo quello che hai detto tu, la stessa cosa, è più piacevole la cosa, anche se c'è da dire che come linearità è più cupa, cioè c'ha una modulazione ricca di tonalità basse e medio basse, il coso, il 60, e pochi acuti, quell'altra invece è più lineare, c'ha più, come si chiama, un po' più di acuti e più di medi acuti, però è, sembra leggermente distorta come modulazione, si vede che sono due microfoni di diversa concezione, preferisco quella del 60. Ok. Sì, diciamo che sarebbe questo, 60, diciamo che questa è più pacata, diciamo, come modulazione, diciamo, beh, poi va bene, è una questione di orecchio, va bene, dai, già va bene comunque, ok. Allora, Robè, dimmi una cosa, un diodo quanto si può pagare? Dipende dalla potenza, può costare 30 centesimi, se prendi quelli di alta potenza ti possono costare decine di euro, dipende da cosa devi fare. Allora, un diodo che mi sembra che sia, mi sembra un 2 ampere, 2-3 ampere forse. No, quelli costano poco, diciamo, sono di basse potenze, quelli quanto ti può costare, fai che ti costi un euro esagerando. Allora, giusto così, adesso non è per il coso, ieri siccome mi servivano due diodi per una questione, diciamo, che sono partiti, sono andato a un determinato posto di affacci e li ho presi, due diodi precisi identici, e me li ha fatti pagare i 20 centesimi. E poi cosa è successo? Me li ho messi in macchina, a volte ho preso di casa, non me li ritrovo più, e ho perso, vabbè. Stamattina mi sono salito a Sassari, sono andato in un altro punto perché ero lì vicino, e me li ha fatti pagare esattamente 90 centesimi. Tutto, figurati i margini che c'hanno di guadagno su queste cose qua. Diciamo, come ho detto prima, normalmente paghi 50 centesimi, poi se vai su internet li paghi anche di meno. Io ti ho detto un euro, magari se trovi lo scemo che te li prende tutti e due imbustati, selezionati, ma un diodo non è un componente di qualità, è un componente abbastanza economico. Perché non dici dove sei andato? Noi ci prendiamo fuori. Su internet non ne vale la pena, perché insomma, cosa fai? Prendi dei diodi e poi te li fai spedire, quasi quasi costa più la spedizione che i diodi. No, no, no, per dire, la diversità, diciamo, da uno all'altro, che cosa c'è da noi? Diciamo che sono dei componenti che... qui meno le prendi e via. Dici i nomi, così ci rendiamo conto dove non dobbiamo andare. Sì, vabbè, già, non mi va di fare nomi in frequenza. Capito, non mi va, cioè, stare lì a fare nomi in frequenza non mi va. No, non facciamo nemmeno dei nomi, Gianni, dai. Ok, meglio non fare né pubblicità positiva né negativa, eh. Io mi sto già immaginando tutto comunque. Ehi, capa, già, come si dice? Adesso non mi ricordo quella famosa frase che diceva, ci dice il peccato ma non il peccatore, era così? Non mi ricordo. Gianni, hai visto che sei curioso? Per quello perché guardi Maria De Filippi. Non curioso, tanto l'ho capito. Più in alto sale più paghi, mio Antone, usi. Non lo metti in dubbio, però si vede che la curiosità è donna, già, dai. Ah, poi, oggi la vuoi sapere l'ultima, ho chiesto e con questo magari se ti dico questo magari ci arrivi, ho chiesto delle valvole, le L519, e mai detto sì sì ce le abbiamo su ordinazione cose, ho detto poi mi può dire quanto vengono più o meno, ha fatto una telefonata, mai detto guarda vengono sulle 85 e 90 euro, ho detto lasci tutto. Che ha pagato. Cosa vuol dire la curiosità in donna? Che un femmina ce l'ho. Oh, riferito al discorso che avevamo affrontato pochi giorni fa, ti ricordi? Ah, di madre di figlio. Ma la curiosità non è solo donna, è anche maschile. Dicono che è così che sia donna, ma anche i maschi già sono curiosi. No, ma è una questione di informazione comunque questa qua, anche se vabbè sono abbastanza informato, visto e considerato che ho sempre comprato in tutti i negozi di Sassari, ma non solo Dino, io ho comprato apparati, lineari, antenne, tutto per 35 anni quanto ne posso aver avuto, e ho comprato sempre lì, qui a Sassari. Ma già sto scherzando, era una battuta. Io ho capito come, ma dico, immaginati quanti possono avere comprati se li conosco negozianti. Addirittura prima non c'erano solo quelli, c'era uno di via di Umberto, c'era Mario M2, c'era quello di via Principessa Maria, e veniva nei negozi. Scusa Antone, già, pensa un po' che un paio di mesi fa avevo preso, diciamo, due valvole, sempre le stesse, le L519 su eBay, mi fetti da un radioamatore di Bari, che le stava proponendo, le stavo vendendo. Prova a dirmi quanto le ho pagate. 50 euro. Allora, 50 euro più spedizione. Ma usate? Nuove di fatto, ancora dentro la scatola e tutto. Misurate e sono nuove. Fatto un affare. Sì, ma prima internet non c'era, eri quasi costretto a comprare, cioè non c'era, non si usava. Internet era poco che si usa così per comprare cose, prima si comprava negozi, quello che ti proponevano dovevi accettare. Addirittura Antone c'era anche una alle Conce, te lo ricordi quello delle Conce? Oh, la verità no. Ed è quello che lavora adesso insieme a quello di Grassi, che sono a Perdanita insieme, che prendono la roba allo stesso mercato, antenne, c'hanno le Mantova, eccetera, eccetera. Quello lì prima c'aveva il negozio lì alle Conce, dopo Eurospin un po' più avanti, poi alla fine. Sai che cosa pretendevo? Un giorno gli ho chiesto il prezzo di un apparato, l'avevo guardato su internet e prima costava quasi 100 euro in più. E gli ho detto, ma perché costa così tanto? Perché ci sono anche le spese di spedizione, mica le pago io le spese di spedizione. Ho detto, ah, lei mi mette le spese di spedizione su ogni singolo apparecchio, però lì le spese di spedizione le paga per 12-13 apparecchi. Ma pari a macchina. E sembra fare i soldi a spalle degli altri, per carità. Dici, per carità, ci hanno già dato capito. Chi si chiama formazione? Ha pagato, cazzo. Cioè, lui ordinava una scatola di apparecchi, cazzo, ne arrivavano 20, pagava per dire di spedizione, pagava 20 euro, 30 euro, e per 30 euro te le metteva su ogni apparecchio, capito che pagava lui di spedizione. perché lo ti ha chiuso subito? Quello se costava 45 euro di litro non te li vendeva 50 i coso, i microfoni della Zetagina, guarda, impressionante il coso. Adesso lo possiamo dire perché ha chiuso, ma era meglio che andare a tagliare a piedi a comprare la roba che andare da lui, mamma mia. Dice a caro di fuoco. E dopo sai cosa faceva? Comprava da Grassi e rivendeva. E a lui non c'aveva niente di suo, lui andava e ti faceva fare anche il trasporto, ha detto bene, lasciamo perdere. Dopo sono, già durato poco poi, lui c'era uno dei pochi che lui c'aveva i baracchini, che aveva i microfoni, che aveva quello e quell'altro, aveva rilanciato la frequenza, infatti ha detto, e poi la rilanci così, facendo pagare la Mantova, e poi contava 80 euro e lui la vendeva a 115, una cosa del genere. 130 euro, Mantova 5, presa da lui, sicuro sicuro. No, con la Mantova 1, che poi la Mantova da 85 euro, compresa le spese di spedizione, me l'ha fatta andare a prendere corso Franco California. Ci credo, ma quella difettosa, quella che l'aveva fatta difettosa? No, a me io prima stavo la Mantova 5, poi c'è successo quel problema lì e mi ho preso la Mantova 1, che tanto sono uguali, non cambiava quasi niente, a livello di prestazione siamo lì. Solo pubblicità la differenza, però l'avevo sistemata con la Mantova 5, l'avevo data, mi sembra Claudio l'avevamo data, boh, comunque funzionava perfettamente, tanto anche l'avevo migliorata perché avevo rifatto la bobina nuova e il piede gli avevo messo un Amphenol, anziché mettere quel cacchio di coso gli avevo messo le viti passanti in acciaio inox, avevo fatto un bel lavoro, l'avevo modificata a modo tuo proprio dove c'è l'imperfezione. E lo stesso lavoro che gli ho fatto nella mia, vabbè, gli ho cambiato la piastra, vabbè, il PN Anfero no, poi ho cambiato la piastra dove c'è il PN, cambiata completamente, ho rimesso il filo di massa all'interno dell'antenna e messo anche più grosso, di quei cavi più grossi. Poi tutta lucidata, rimessi tutti così in acciaio, tutte le fascette in acciaio che erano tutte arrugginite. Tutto fatto bene, ragazzi, adesso il vento, le cornacchie mi hanno aspettato variali. E che cornacchie non avete? Cacchio, non è pieno la città di questo cavolo di cornacchie, guarda una cosa, l'altro dio a me non me l'hanno ancora troncato, ma non so quante volte che la vedo sopra i radialini, siccome i radiali sono abbastanza lunghi, nella 1 e nella 5 rispetto alla tubo che sono piccolini. E te le vedi ballando lì che prende su l'usore e la corraccia, la senti il pilotelastico non la butto. Ma Gianni, ma la 5 non è uguale alla 1? Sì, più o meno sì. Cambia qualche cazzata, sono più o meno uguali. Mi sa che la 1 c'è radiali in alluminio, così è. No, allora, la Mantova 1 c'ha 4 radiali, la Mantova 5 ne ha 5, sono identiche, d'accordo. Ma i tuoi ci sono in vetroresina? Sì, sono in vetroresina, ecco bene, sì. In resina con la parte in ottone, l'innesto è in ottone, mentre la tubo sono in alluminio. Ah, allora, quelli non te li taglia la cornacchia. Non l'ha tagliata a me in 10 anni, a me mi ha tagliato quelli in alluminio, perché io dopo che l'avevo sistemata con Fabrizio l'antenna, le abbiamo fatte un radiale in alluminio, le abbiamo comprate, le abbiamo fatte su misura, messe all'interno, ho fatto un buco, ho messo un burrone passante d'acciaio e nel più fissi di così si muriva e rimanevano belli dritti, bella, sembrava uscendo dalla casa. Poi alla fine del radiale le abbiamo fatto una colata di colla di quella come si chiama? Quella ma adesso non mi ricordo, un bastoncino di cera, sembra cera, dai, quella colla che si usa per recare la pesca, eccetera. Una colata di quello gli abbiamo messo tutto il vulcanizzante attorno e gli abbiamo fatto il tappo davanti, non con vulcanizzante. E niente, era fatto bene il lavoro, non c'era una bizzica come si dice in Sassarelli. E me l'ha troncata la cornacchia proprio dove c'è il buco dove passava il bullone, lì era più debole perché c'era il buco, poi me l'ha tagliato. Qualcuno li mette le lente per pescare dalla punta del radiale fino a sopra diciamo, alla parte telescopica, in modo che oscilli, cioè se c'è il peso della cornacchia non si spezzi. Ma tu stai usando la Mantova Turbo? No, io sto usando la Mantova 1. ti posso garantire sono anche la 5, non cambia assolutamente niente, sono identiche, assolutamente nessuna differenza. Qualcuno dice che la turbo rende di più ed è la stessa cosa, perché conosco gente che aveva la 5, ha montato la turbo, addirittura ha detto che ha notato differenze di ricezione, è solo pubblicità e basta, l'hanno fatta a livello pubblicitario per far cambiare. C'era quello di Usini, nel senso che aveva due antenne una a fianco all'altra, la turbo e la 5, e ha detto non c'era nessuna differenza. No, senta, anche perché io per esperienza ho avuto la turbo, ma è una grande stronzata. È una grande stronzata perché io adesso ce l'ho uno, ho messo la 1, ma a parte diciamo di segnale di ricezione non cambia niente, sono tali uguali. Soltanto che la turbo si sono persi completamente, perché ha questa piastra sotto dove innestano diciamo i radiali in alluminio, poi ci sono delle viti passanti dove vai a premere. All'interno loro te la danno, mi sembra, per 3000 watt o per quanto, e poi ha un filo in rame molto molto inferiore, tipo un 2,5. Questo è molto molto inferiore. A me mi ha creato molti molti problemi. Poi alla ricerca ho trovato questa qui, la Mantova 1, e ti posso dire da allora, adesso ce l'ho quasi un annetto, ma non mi ha creato mai problemi. Sì, no. A parentesi, noi ci siamo sempre fissati con queste cacchio di antenne Mantova, forse perché le conosciamo tutti quanti, ma se vai a cercare su internet, ho visto delle antenne americane che se la cagano 4 volte la Mantova, poi dicono prestazioni assurde, 6 decibel in mezzo, 8 dB di guadagno, sono cose assurde, non esistono per un'antenna 5 ottavi in verticale che riesca a tirare quei guadagni lì. Insomma, la gente è convinta. Guardate le direttive, e arriva al guadagno della Mantova, una direttiva a 4 limiti, c'è lo stesso guadagno della Mantova tubo, che dicono che guadagna 8 dB. Infatti sono tutte cose ridicole queste prestazioni. Poi dicono 2 kW e mezzo, non so quanto tiene, c'è gente che le ha sciolte con 1 kW e qualche cosa. E infatti io l'ho giocata proprio in banda, però in banda, non in AM, in banda me la sono giocata, perché stavo provando un aggeggino e poi ho visto che era un bel fumo, ho tolto la piastra, ho controllato diciamo questo carretto dal connettore, diciamo, che poi va a prendere sulla spirale, cotto, proprio completamente cotto. Sì, ma ho sentito anche altre persone che hanno sciolto il coso, il cavo, è troppo sottile quel cavo di coso, quella bobina, quella, come si chiama, quella carica che c'è, è ridicola, non serve a nulla, vabbè, non ci frega niente di usare quelle potenze, però è come costruzione economica, un po' mi si salvano gli stili in alluminio anodizzato con quei riduttori, però per il resto il piantone è una cosa ridicola. A me mi si era anche rovinato il piantone perché non era fatto bene dentro la reinsinatura, c'era dei bordi, avevo dato dei colpettini per entrarlo, si era mezzo rovinato, infatti l'ho avuto tutto lucidare dentro, c'erano delle imperfezioni dentro di resina, non l'avevano fatto bene. Ma ne ho visto altre di antenne e non c'hanno niente a che vedere con la Mantova. Io ho la piccolina per dire la multibanda, che è un giocattolino della LEM, ma nemmeno Vizzino ce l'ha messa quella lì. E tutto è una cosa, in presuffusione di coso, di come si chiama, d'alluminio cromato, tutti i radialini sono in acciaio inox, tutte le batterie in acciaio inox, quella può essere da 30 anni sotto scosa, non succede niente, poi uscita, la vedi, si muove, non si spezza, tra l'altro va, secondo come la ci metti in quei tirantini c'è il rischio che la spacchi pure, perché devi lasciare anche un po' di oscillazione, se no gli fa l'effetto frusta, se li metti troppo in basso i tiranti rispetto al piantone, devi fare in modo di metterli su, mentre con questa in acciaio inossidabile la fai a sonetta, non succede nulla. Io te l'appoggio. E sarebbe questa antenna migliore della Mantova, robe americana, qual è? Guarda, aspetta, se tra l'altro ti dico anche il modello, c'è un guadagno impressionante, è una, come si chiama, non è una 5 ottavi, è, aspetta, te lo dico subito, scusamela. Ma non affidiamoci a quello che scrivono, perché se no togliamo il tuo discorso, se ci affidiamo a quello che scrivono, buonanotte. In realtà mi sono trovato bene con la mia, non è il massimo di antenna confronto a tante altre, però lo dico che mi sono trovato veramente bene, poi giustamente uno deve guardare anche la posizione in cui si trova, giustamente l'antenna deve essere adeguata e c'è poco da fare, però da parte mia sono contento perché mi ha dato delle buone soddisfazioni ed è semplicissima. giù per giù. Si incasinano tutte come ha fatto a Silvestro. Gli spagnoli, Bartone, già, gli spagnoli ci sono. I brasiliani ci sono. Ah, i lessi? Tutti quanti. E lo spagnolo senza il bisturino? Senti, il bisturino ce l'ho, cosa stai dicendo? Gianni. Cara. Allora, l'antenna che dico io è questa qua, si chiama Tagra BT104, fa la 24 a 30 MHz, ed è 7 ottavi d'onda, non è una 5 ottavi, è alta 9 metri e 53, guarda tipo l'antenna lì, la costruzione, e poi mi torna la risposta. E poi c'è questa 05 Colossal 10 kV, cioè 10 kW di potenza, puoi metterci. Questa è una 5 ottavi, ed è 11 metri di altezza di antenna. Vai, guardati quelle antenne, poi le confronti con la COSO, sono americane, le confronti, se qualcuno c'ha internet, prova a entrare, se c'hanno niente a che vedere con la costruzione della mantova, se vedi solo il piantone ti mette le mani in testa. Questa qua, questa Leofevi Colossal, c'ha 10 kW ed è una 5 ottavi, è la più bella, quella che mi piace più di tutti è questa Tagra BT104 che fa la 24 a 30, che è una 7 ottavi, ma voi mettete 53 di antenna. Lascia perdere. Ma quanto costa quel tipologia di antenna? Non so quanto possono costare, però la manta va basso un pezzo di tubo, la paghi 130, 140, dipende anche da cosa prendi. La manta va fatta bene, Roberto, non puoi dire cavolate. La manta va è l'antenna di tutte quelle che io ho avuto, la più praticamente, quella più robusta come struttura. Gianni, noi ce l'abbiamo tutti, compreso io la manta, ma è la più comune di tutti, però non parliamo di qualità, perché se tu la vedi, me l'hai detto anche tu, il piantone non vale nulla, i radiali si devono cadere in due, l'alluminio è fine, non so quanti ne ho visto tutti i radiali, quei BL dove attaccano è tutta roba economica, cioè non c'è il valore di quella cosa, è un pezzo di tubo di resina con un coso, un avvolgimento del rame, tu le hai viste le altre, quelle che hanno la carica in vetro, cioè non vetro, una specie di vetro, la costruzione di quelle, poi la resa, non lo so, o quella lem, quella grossa, e faceva una lem più grande della manta, ma lo stesso quasi la lunga intera, che non so quanto costa, se dite, però l'ho vista sul catalogo, ma se vede la costruzione di quella c'aveva 16 radiali, non c'ha niente a che vedere con la manta. La superlem sta dicendo. Allora Roberto, stai parlando della Sini 8002, che c'ha una spirale, una carica, poi c'è una protezione, diciamo tutta in plastica trasparente. Quella è veramente una signora antenna. Sì, guarda, mi c'è un catalogo della cosa, della cosa, non la Super Lemmes, questa si chiama Super 16, è 3 quarti d'onda, che fa la 26-28 3000 watt, e vabbè, qua dichiarano 9 dB di guadagno, è assurdo, è un'antenna di 8 metri, pesa 7 kg e mezzo, guarda tipo l'antenna lì, e poi la confronti un po' con la mantova. Lascia perdere. A proposito, dacci una dritta, il 140, il processore FM funziona? Certo che sì, si è modificato, sì. Quelli che si sono in circolazione, che sono passati mano mia, sono tutti modificati. Cosa vuol dire? Se è modificato non deve funzionare, già ce l'ha già in automatico. No, lo puoi disinserire e inserire. Come è normale con il codice? No, se invece non è modificato non funziona. Che cosa che non si può modificare? Nel 140 è lo splash in AM, punto. No, quello che voglio capire, allora, se tu c'hai un apparato vergine senza essere modificato, il processore nel 140 non deve funzionare in FM, così mi dici? 140, ti ho detto, è l'unica radio che ha tutte le funzioni, tutte, in AM, in FM e in SSB, tranne che lo squelch in AM. Quindi deve funzionare il processore in FM, mi confermi? Certo che sì, il mio funzionava, perché qual è quello che non funziona? Ma qua abbiamo fatto delle prove, quello di Gianni in FM non funziona, non cambia niente, mentre cambia tantissimo in AM, come tutti gli altri. Infatti ho chiesto, ho detto, siccome non sono sicuro, so solo che lo squelch non funziona in AM del 140 rispetto al 440, chiediamo a uno che lo sa, e tu mi stai confermando, deve funzionare anche in FM processore. Ecco che sì, io lo attaccavo perché l'FM ha una modulazione troppo forte. Ah, ok, va bene, solo a livello informativo. Comunque già, non ti preoccupare, andava bene lo stesso. Deve funzionare però. non funzionava perché altrimenti lo stacco l'ha sentito. Lo so, io ti dico che funzionava tranquillamente. Comunque buonasera a tutti, sono il tuo maleducato. Sono reduce da un po' di battaglie, quindi mi stavo ascoltando e niente, ho detto lascia perdere Robè, per montare le antenne 7 ottavi, ci vuole posto e voglia di fare, perché secondo dove rappiazzi lo più mettere te la spezza in due. Sì, sicuramente, Mario. Però se tu guardi questa antenna che ti dico io già, è la costruzione di quell'antenna, vedi i materiali, perché ci sono anche gli spaccati dei materiali, americana, è un'antenna, non so se sia importata in Italia, non credo neanche. Se tu la vedi ti metti le mani in testa rispetto alla Mantova. Buonasera Sparviero. Ascolta Sparviero, mi serve un relè. Il relè è? Caffa, no, perché ho preso i diodi. Ho preso i diodi sostituiti, però evidentemente il relè non è in città. Bisogna vedere che relè, come è fatto, se puoi smontarlo, perché così non è che puoi andare a prenderlo, i relè ne ho tanti, neanche al lavoro, però bisogna vederlo com'è. Ci sono dei valori da poter rispettare, perché altrimenti quando incolla può fare più danno che altro. Guarda, ritorno un attimino, scusate, io devo chiudere. Tonto, questo è normale, vabbè, dai, togliere un attimino, no, perché ho provato, ho sostituito i diodi, le valvole, vabbè, accendono, normale, tutto quanto, ho provato a schiacciare il PTT, però il relay non eccita, ho provato a appoggiarle, diciamo, un cacciavite isolato sulla linguette e ho visto che va, che diciamo la sua funzionalità la fa, diciamo che in effetti sale, però logicamente il relay evidentemente c'è qualche componente che è partito, vabbè, lo devo togliere, dai. Diciamo, lo devi togliere perché non è difficile da trovare, però è meglio vederlo bene per poter avere i valori giusti e per far sì che poi quando una volta che esce deve staccare al tempo giusto, deve avere lo stacco tra la M e la banda laterale, cioè ci sono dei valori da rispettare, sa. Se lo togli lo mettiamo alla caccia e lo cerchiamo, non è un problema. Ma l'ho spiegato poco fa Gianni e Roberto, ho preso dei diodi in un determinato punto e me li hanno fatti pagare mi sembra 15 o 20 centesimi, me li sono messi lì da parte lì in un furgone, poi non me ne ho ritrovati, poi li ho ripresi in un altro punto e me li ha fatti pagare quasi un euro. E subito il gioco di Caruso. Per carità, è come la solita cosa di Biella, da una parte lo compri a 2 lire, per dire, e da un'altra parte lo fa pagare 3 euro, capito? Vabbè. Così si vive, caro Sandro, capito? Voglio sentire Gianni, davanti. Ciao, qua. Ciao, perché dire? Aspetta, passa un attimino che voglio provare questo processore che non mi scende, perché altrimenti mi ha detto che ho sentito lo stacco diverso, loro non l'hanno sentito. Proviamo a vedere 27.05, proviamo a vedere se lo sento. Perché devo uscire dalle memorie però con questo, perché oramai la memoria è durata in 10 metri, 27.005, canale 4, ho copiato già, 27, ma puoi farlo anche qua, è sparito. Ce l'ha sicuramente, c'è rimasto qua. Io Pitturino. Ciao Tomè. Salutoni. Se neanche a te, ci dovrebbe essere anche Roberto e Sandro. Comunque, cosa stai combinando, dottore? Niente, sono diventato al baracchino una volta, l'altro già andato via stamattina, quindi sono tornato, quello di giorno sto usando adesso. Domani telefono a quello che gli ho passato il forato un attimo e lo faccio tornare. È stato un anno, figurati. Chi è quello di Ussi? No, oh, un altro, uno di Sassari questo, era un ex socio mio. Speriamo che te lo dia. Che attaccavi. A me mi rimaneva 45 c'era quella propagatore da Rimini, se non sbaglio. A me arrivava Santiago Otto Radio 5. Oggi gli avevo dato un messaggio. Va bene. Sì, no, adesso questi giorni c'è molta propagazione. Quello che te l'ascoltavano sicuramente era Nicola da Imperia e poi c'è Marco da Sanremo. Arrivano molto, molto forte, anche Patrizio lo stesso lì sempre va allora di Imperia, arrivano molto bene in diretta, ciclistico, no? In questi giorni siamo un po' sparsi alla caccia di collegamenti che non abbiamo con tutti, io ormai mi sono un po' attrezzato, quindi sono sempre 10 minuti adesso per sera alle 13 che proviamo, sto 4:30 adesso funziona ancora e quindi sono entrato a salutarvi. Sandro ancora ci sei? Sì. Ciao. C'è più Sandro? Il collega che mi ha mandato il messaggio, dimmi a che punto sei, che c'ho già l'antenna pronta. È di fuori? Sì. Ciao ragazzi, e tu che cosa hai scritto? C'era appunto buono. Poi io sono appunto molto superiore, che mi ha detto stamattina, nuovamente rabattato sul tetto, sto qualificando ancora perché abbiamo ordinato altre due antenne, ma sempre attenzione, a tasso molto basso, non cose molto grandi, sempre a tasso basso, e quindi sto qualificando per cui essere già pronto e preparando le calate. Infatti io ho tolto quel rottore che ci avevo, quello, ecco l'altro messaggio, quello della Stoller, e mi si bloccava, l'ho messo nuovo. Avanti, Antone. A poco. Questo è il Antone, dai. Non mi dici che. Ma niente, stavo facendo questo radioascolto. Sì, di Rimini. Di Rimini, beh, metto qui due posti, non mi ricordo. Comunque, già erano quelli lì. Comunque la città arrivavano veramente bene, sembravano guarda sotto casa, incredibile. Io con la mappa l'ascolto tutto 10 metri, 80 metri, 40 metri, di solito ascolto sempre queste frequenze qua. Quello sì, ma anche io usando questa mezz'onda non ho avuto sinceramente nessun problema. Meno male, sì, c'è qualche dB di differenza, che a chi gli arriva a 9 ne arriva a 7. Poi radio sempre 5 in quelle frequenze lì. Non ho avuto mai nessuna difficoltà per fare l'ascolto, anzi sono molto contento, va più che bene. Tu lo sai che io quando sento per dire che ha dei controlli mi stupisco perché quando lo smetto a me mi arriva quasi lo stesso. E infatti, è per quello te lo stavo dicendo, capito? Non hai un'antenna adibita per dire a quelle frequenze eppure funziona abbastanza bene, è la verità. A voi, di Russo, va più che bene. C'è da dire che la Mantova, essendo un'antenna verticale, radia da tutte le parti, quindi è chiaro che si ascolta, soprattutto in bande 10 metri, 15 metri, 14, quindi 10, 15, 21, 28, un po' di meno nei 40, ma comunque. Diciamo che dà la possibilità di essere doppiata di ascoltare nessun problema. Il verso è in VHF, in UHF deve l'antenna predisposta, ecco, tutto qua. Però tieni conto, Antonio, è quello che ti ho sempre detto, io non so che dice Vittorio abbia già anni, ma tu sei molto, molto avvantaggiato perché hai un ricevitore che non ce n'è per nessuno. Quel ricevitore te l'ho già detto la stessa scheda di quello grande che ho io da 17.004, quindi è un ricevitore pazzesco, veramente penso che la ICOM di quella stazza lì non ne abbia fatto neanche uno, c'è proprio 5-7 che manco vicino a quello lì, ma manco paragone, io l'ho avuto, c'era un sacco di gente, se lo tengono veramente, è un ottimo ricevitore, alla grande in tutto, piccolo ma sincero. Come ha giocato lì? portatilino, claro, il mio è un portatilino col gommino, non è niente di che, ma diciamo che forse anche la posizione che ho mi avvantaggia e riesco a ascoltare così tutto bene. La posizione è tutto anche, ci vuole, ecco, no, ok, sempre per il messaggi, datti una mossa, che io ho già tutto pronto, capito? Datti una mossa che ho già tutto pronto, così si sistema anche quella parte lì. Anche gli auguri tentativi adesso si mettono cazzi. Ah? Hai anche gli auguri tentativi che ti fanno spendere. No, già, allora, siamo a livello uncinetto, per capirci, non ho nessuna voglia, anche perché, ti ripeto, come ho sempre detto, io da prossimo anno posso fare grandi cose, ammiro, stimo chi le fa in un po' diversamente, quassù chi è venuto non è cosa da aspettare, qua per fare le cose bisogna veramente investire un sacco di soldi, c'è da travicciare, mettere pali con le controballe, io non me la sento di dove dormire la notte, questo è un piccolo travicetto, mettiamo facendo un altro uguale per montare una iaggi, una cubica, però basta così, non è che posso fare, magari avessi potuto fare ciò che hanno fatto gli altri, mi sarebbe piaciuto, ma non posso, per uno, perché non posso investire i quattrini a quelli veri, uno, e secondo perché è talmente alto il posto che è molto ma molto pericoloso, dobbiamo fare veramente le cose fatte, ma fatte bene, e sottolineo fatte bene, perché sennò si ingaggia che cosa è una gasobra, sono dolori, uno mi viene da piangere a me per quello che ho investito, due mi rompono il culo, per capirci. Non devo direi, no, a futilini qua, non è voluto basta chi mi. Sei già tu in alto, quindi non è bisogno, no, gli altri magari sono più bassi, hanno bisogno di tralicio, di cose, tu il tralicio c'era già in natura, nel senso che è il palato che è alto, quindi non ci vuole tralicio alto di sicuro, basta un piccolo palo, diciamo piccolo nel senso basso, ecco, magari robusto si va basso. Non sai qual è già, io con Marco abbiamo qualificato, è montato la monobanda per i 10 con sopra la monobanda per le VHF che non sono piccole, una c'è 6,50 di boom, l'altra ne ha 3, quindi sono abbastanza larghe, abbastanza grandi. Però il problema è che l'antenna deve essere almeno 4 metri, cioè deve vedere 4 metri almeno di vuoto. Quindi devi sollevarla lo stesso, non è che puoi mettere un palo 2 metri e basta, no, perché io praticamente non sono alto, però se fosse libero allora sì, invece c'è il sottotetto che è praticamente 10 metri e quello fa la piano riflettente, da quel piano lì tu devi sollevare almeno 4, 5 metri, 6 metri, quindi devi sempre sollevarti ed è molto pericoloso, lo abbiamo qualificato con due pali, uno da 2 pollici, uno da 2,5 pollici, l'altro da 2 pollici, figurati, ma pali veramente grossi e robusti, quindi è sempre un pericolo, e adesso devi stare lì quando c'è vento, l'antenna è puntata al nord, può rovinare il cuscinetto che si spinta, perché spingi oggi, spingi domani, quindi devi tenerla sempre sotto controllo, puntarla a nord-est, puntarla a nord-ovest, dipende dal vento, ma l'ottore di Baleva io non lo volevo mai fare, e quest'anno mi hanno convinto, stiamo iniziando a fare qualcosa, se no è una grande rottura di balle, credetemi, meglio verticali e ciccia, infatti c'è una verticale 5 bande, che non monto perché non mi serve, nuova della PKW, che è molto molto robusta, e infatti per me dicendo, mi sembra non c'è più, ma ho sentito c'era un problema con l'antenna, così ha detto. No, no, no, ha detto che la cosa c'è, questa non ha più problemi, l'altro gli dava problemi. Cosa stavo dicendo? Ma mettere più al centro, ma il tetto non fa. Già, prende una sopra il la mantovana dell'ascensore, che quella prende tutta la parte, perché quando sia nella parte bassa e la parte alta sono le stesse altezze, cioè le stesse lunghezze del terrazzo, anzi, una parte più corta. Perciò il dipolo 15, 20 e 40, che è lungo 35 metri, la proiettazione orizzontale, è alto 4 metri, parificato una parte all'altra, 4 metri dal suolo del terrazzo. Poi sull'angolo verso l'interno lato strada, lì c'è la mantova, più avanti c'è la 510, più avanti ancora c'è il Torrino con la monobanda di 10 metri, quella del VHF, e poi all'angolino c'è la X50 che è un'antenna di scorta, sempre VHF, VHF. Ce n'è ancora tantissimo di posto, per carità, però cosa fare? Alla fine quando metti le antenne che devono girare, fino a quando metti verticali, ne puoi mettere anche 10 lì. Tutto una vicino all'altra non succede niente. Però dico, quando inizi a far girare le antenne che c'hanno 6 metri di boom, ma dove vai? No, non ce la fai più a girare. Toccano una con l'altra, fai casino, c'è il piano di riflessione, c'è un casino nero. Beh, le direttive hanno bisogno di spazio per girare. Io quello che non mi sono mai dato una risposta è quando la direttiva gira, non se la preciglia il filo. E c'è un sistema per non farla preciliare, già. Mica qua, quando tu monti l'antenna, che c'è il master, quindi un tubo di un metro, due metri, quello che è, attacchi il cavo dell'antenna, devi lasciare in bando un metro, 80 centimetri, dipende da come l'hai montata per far sì che ci sia tutta la rotazione, il cavo sia in bando e non sia attorcigli. Se tu le metti le fascette lungo il palo, quando gira si attorciglia tutto e spacca tutto. È quello che non mi dà una risposta. Ma ho capito, cioè, ma il filo poi va a finire in terra. In terra dove? Sotto l'antenna, dico, in terra. Una volta gli attacchi, anche le direttive c'hanno gli attacchi PL, no? Oppure le costruisci, dipende come fa, se c'ha il gamma match, l'attacco al gamma match, metti il PL e poi cosa fai? Le fai una simmetrizzazione, praticamente un giro, due, tre giri al cavo, lo fascetti, lo lasci un po' in bando per far sì che quando il rotore gira a 360 gradi non se lo porti appresso il cavo, no? Devi lasciare un po' di cavo in bando per girare assieme all'antenna, se no te lo attorciglia tutto se te lo fascetti. Quindi c'è la probabilità che magari quello tu stai girando, se succede qualche inghippo o se lo posso attorcigliare lo stesso o no? Diciamo che se non si blocca il rotore comandato dal control box, l'antenna continua a girare, è chiaro che gira su 360 gradi, è chiaro che se lo attorciglia, ma di solito può succedere, ma è meglio che non succeda, se no fanno un danno allucinante, attorcigliamo sul cavo, spacchi anche il gamma match, spacchi tutto. No, stavo cercando di pensare perché direttive ragazzi io ne ho visto, però non ho mai capito come faceva a non attorcigliarsi, capito? Perché dal punto dove è collegato, come l'antenna gira, vabbè che non la giri su se stessa, la giri a 90 gradi. Sempre a nord devi partire, quindi a nord o che vai a nord-est o che fai a sud-ovest e a sud, fa sempre il giro di rotazione di 180 gradi, no? Quindi poi dall'altra parte fa la stessa cosa. Però già si vede, come vede le direttive montate, tu vedi praticamente come quando io monto la mantova, no? Le lascio sempre, le faccio il cerchio. Quel cerchio va attaccato al tubo perché l'antenna non si muove in verticale. Con lo stesso specie mal di gola, come sempre. Comunque io avendo soldi eppure diciamo, e avendo la passione del radioamatore, io tutti questi soldi per l'antenna non li avrei speso, avrei comprato qualcosa di discreto, non così tanto dispendioso, tanto alla fine quanto guadagni 2-3 dB in più di ricezione, chi se ne frega, batti trasmettere alla fin fine. Ma ecco, lo parli di direttive, stiamo parlando di 12, 15, 14, cioè dB, stai scherzando, 3 dB, io volevo 3 dB, stai scherzando, no, quando si parla di direttive si parla di dB, veramente tanti, direttive sono fatte per ricevere un segnale a 1, un segnale da porta 1 e ti dà quel segnale tranquillamente. Mi è capitato ieri mattina proprio, non c'era un filo perché noi abbiamo il cluster è un sistema internazionale dove si vedono tutti gli spot, tutti quelli che stanno parlando in tutto il mondo, e quindi ho visto che c'era l'India e ho girato subito l'antenna a 70 gradi nord-est, 80 gradi nord-est, e arrivava con un segnale di 3, 4, non di più, e l'ho chiamato e mi ha risposto, diversamente se l'antenna non ha guadagno non assolutamente lo senti. Stiamo parlando dell'India, parliamo dell'India, dell'Australia, cioè parliamo di chilometri e chilometri e chilometri di distanza, quindi non, se un'antenna non ha di bini guadagno non riceve tra bini come lo sa, ma non lo metti in dubbio quello, ma io credo che c'era pochissima differenza, invece di arrivare a, un esempio, di arrivare a Santiago 5 una discreta antenna, l'altra arriva a 9, io personalmente mi sarei fregato, l'importante è che ci fosse stata la comunicazione, ecco, tutto lì. Vabbè, anche io penso come te, l'importante è fare, a me non è importante avere un grande segnale, l'importante è avere il cantri fatto e dire ho collegato quello, punto. Poi è chiaro che chi ha grandi possibilità, di grandi direttive, di grandi amplificatori, è chiaro che sfascia il mondo, però io mi sono accorto che quando lavoravo in 10 metri con la filare, che nonostante sia una buonissima antenna, perché è una buonissima antenna veramente, la collocazione orizzontale, quindi direttiva su quattro lati, però non la puoi muovere, non la puoi girare, il segnale ce l'avevo lo stesso. Qualche collegamento l'ho fatto sicuramente, ma quando la direttiva, che vedo che c'è un segnale a 3 con dipolo, e appunto la direttiva so che è a 230, 240 gradi, e gliela metto sopra, il segnale da 3 passa a 9 più 20, è lì il problema. Eccolo, già vero, ma poi giustamente c'è l'aggiunta di un buon apparato, poi bisogna mettere anche in considerazione anche la propagazione, che è importante anche quella. E dunque devi mettere tante piccole cose, lo so, è dispendioso, quello sì, un pochettino più di soddisfazione per l'era, ma poi alla fin fine mi sarei contentato anche di poco, io mi accontento di poco, basti che uno moduli e si faccia sentire. Quello è vero, Antonio. Come dice il saggio, l'importante è partecipare, poi non è un problema chi arriva più alto e chi arriva più basso, ci sono le grandi competizioni, come sappiamo tutti, come sapete tutti, c'è chi ha grandi antenne come Marco, già ne riconosce, come Walter, adesso c'è anche Fabrizio che ha fatto un grandissimo impianto, come tanti altri, però è chiaro che devi fare dei grandi investimenti, altrimenti no. Non è fattibile avere grandi risultati, ce li hai giustamente come dici tu, quindi insomma sei in mezzo e ti metti e fai, ti sentono lo stesso, ma quando hai grandi antenne, grandi radio, è chiaro che i risultati sono molto più soddisfacenti, insomma questo è quello che penso io. Poi uno fa le cose per quello che può fare, poi chiaramente non è che si può aggiungere altro. Alessio. Qua sono qua. Comunque là la cosa diversa, a parte tutto, ci vuole un sacco di soldi e diciamo che uno che rimane lì, cioè che se contabilità, se qualcuno mi mette sotto non c'è, è difficile che ci entri. Perché non vuole tanto la morte e cioè, si attonto, non nel senso. Piuttosto per le lingue, per farsi capire il discorso è così. Quindi Walter sono un po' di lingue, Pitugno altrettanto, Fabrizio ripeto, non ho mai sentito parlare bene. Quindi, cioè, è bello così, se uno sa parla solo italiano, non sa le lingue, è inutile che ci parla in quella frequenza, la verità. Non fai nulla, è come essere qui in 27 che ti sentono spagnolo, parla, non capisci niente, capito? Inutile fare un DX. Però piano piano se lo vuole si impara, basta fare ascolto e come ho fatto io. Ho imparato per dire brasiliano quello che è, ascoltandolo piano piano, ma ci ho impiegato quasi 10 anni, le cose quello però mi diverto, diciamo il francese non lo comprendo un tubo, la verità, perché l'ho studiato ma non mi è stato antipatico, così anche l'inglese, dopo che la maggior parte della lingua che usano è inglese fuori. Perché altre, quindi mi trovo incasinato, se no sarebbe stato facile fare il DX con tutto il mondo, per dire, perché tutti quanti più che altro parlano inglese, oppure russo, ma russo è un casino, mi è poco incasinato quel caso di lingua, mamma mia. Assolutamente, diciamoci, è chiaro che le cose principali devi sapere, però nessuno è nato imparato, quindi nessuno, questo sta arrivando quanto arrivi, questo sta arrivando quanto arrivi tu, mentre 9 più 60 è quello che 50, io sto trasmettendo adesso Gianni, tu immaginati che la Mantova è attaccata proprio a questo tubo, a questa filare che io ho, no. E non li faccio assolutamente nessun battimento. Sì, messaggio adesso ti rispondo. Non è assolutamente, è chiaro che c'è chi è più preparato e chi meno, però in banda amatoriale le cose principali le sappiamo fare tutti, chi è arrivato da poco e chi c'è da tanti anni. L'importante è essere un po' veloci nel parlare, anche così come parli in 3x9, perché diversamente perdi subito la ruota, perché c'è tantissima gente, soprattutto quando sono i collegamenti a lunga distanza, che se non fai in fretta ti passa di sopra, capito? Quindi quando tu chiami e dai il nominativo, io quando chiamo è normalissimo, Italy Sugar 0, Roberto Florida, bravo, again, quando dice ripeti you call, dai il nominativo, 73, 5 night, thank you very much, bye bye, e saluti, cioè non è quello il discorso, è chiaro che chi poi ha la lingua parlata, sia l'inglese ed altre lingue, si mette lì a scambiare due cose in più, però a me quando lui mi dice che mi ha collegato e mi dà il rapporto del collegamento, ciao, ti saluto, grazie, arrivederci, cosa ha detto mio figlio. La verità, un conto è parlare e farci per dire un 5-10 minuti di queste o no, per dire, e l'altro è dire le cose semplici e poi pigliare e mandarcelo, la verità non ci piglia neanche gusto, la verità, però perché volte fare ascolto piano piano si impara la lingua e tanto senti sempre più o meno le stesse cose. Quindi è quello, io il brasiliano la verità l'ho imparato a Brasile, ho fatto uno spagnolo, per quanto me lo ricordo tuttora, invece il francese che ho studiato mi ricordo proprio un accidente, la verità, e da quello anche l'inglese, per dire, però lo spagnolo e il brasiliano lo parlo bene, non è che lo parlo male, lo parlo bene lo capisco pure, perché mi sono abituato a tutti i giorni, quando abitavo via di Sedo, ci parlavo, ti ricordi, e a volte c'è gente che non sentiva nemmeno la Spagna, io invece ci parlo tutti i giorni con la Spagna, con le Canarie, con quello che era, e da metà abituato mi sembravo parlando in italiano, per dire, e mi divertivo, è così anche il brasiliano, mano a mano che l'ascolti impari ciò che vuoi dire, magari non lo sai scrivere, però almeno fai un bel questione, lì mi divertivo. Però quando ho capito a casa, da lì a qui, sono passato dal brasiliano, spagnoli e i russi, per dire, perché così io la sento la Russia, sento la Polonia, quello che è tutti i giorni, 9:20, 9:40. Un giorno è capitato con un Giovanni qua a casa, la verità, e gli ho detto Giovanni, parlaci tu, e ho detto, io la stiamo volando, gli ho detto diciamo Mosca. E gli ho detto, ora non ci credo, non è possibile, poi mi ha parlato di quello che è insieme a lui, nel collega suo, era proprio russo, arrivava 9:20 per dire, ti parlo di, non di adesso, ti parlo quando, quando ho preso la Mantova, la Mantova 5, che sono un bel po' di anni, sa dal 2000, una cosa del genere, però ogni zona ha l'apertura sua, beh, io sono andato qua per quella zona lì, era sempre molto forte, invece dove abitavo io prima era una cosa allucinante, parlavo di spagnoli tutti i giorni, la cosa quando c'era per dire Domenico Crista, che era una cosa allucinante quel punto lì, parlavo con Cagliari, con qualsiasi persona parlava, era un punto veramente bello, anche la buona di Maricoso, di quel vecchietto, se non mi ricordo, qua qualcuno, da Monteoro, Iva, quello parlava tutti i giorni con gli spagnoli, quella era affettata, guarda, lo sentiva lui, Va bene, io ti ripeto, adesso questo che sto facendo, perché in 10 metri c'è molto traffico in Sud America, quindi sudamericani, è chiaro che tra brasiliani, argentini, eccetera, eccetera, è chiaro che parlano tutti così, però parlano molto bene anche l'italiano, quindi non è detto che devi partire in quarta, poi lo sai. Due frasi in algherese ti capiscono subito, non è quello il problema. Va bene, va bene. C'è tanto da imparare sempre, sempre, sempre, sempre. Sempre. Io ho fatto 20 anni di pirata e 20 anni di radioamatore. Quindi, perciò è così. Stavo sempre lì in agguato, in attesa, ascoltare, a fare, a rompere le palle a tutti. Gianni, doppio room, tranquillo che la tua radio funziona perfettamente, cambio. Tanto Gianni si è sumito, l'attesa brasiliana. Faccio il metro, i piatti che hanno fatto tutti, se ti ricordi, Vittorio, Walter, addirittura faceva le pannacchie, se ti ricordi bene. Walter, Vittorio, Gianni non è sole, tutti i piatti, no? Se ti ricordi bene. Poi a mano a mano sono diventate le mani anche loro, il bello è quello. Quindi c'è televisate che facevo. Gianni, diciamo, manco la patente, è entrato il figlio, il figlio proprio senza fare niente. E poi diventa automaticamente, cioè siccome ha scritto al sindacato, no, era così, l'avete clicca, e adesso sta il segretario. E non capiamo la fancura, te lo immagini? Boh, è una cosa allucinante, guarda. Io quando mi ha detto, dice, sto guardando a capo, mi ha detto, ma come fai a guardare a capo? Ho detto, sei tonto come il coso, gli ho detto. Non pensare così, già ne sa. I cacchi suoi già li sa. Io, una cortesia, le ho chiesto un'informazione, me l'ha data molto, non molto dettagliata, molto precisa, ti dico che è molto, molto preparato come sindacalista. Proprio vero, ma molto, preparatissimo, e anche politicamente molto preparato. Non so se si è messo a studiare da grande, però ti posso garantire che è una persona molto, molto preparata, in quell'anno è molto preparata, ma tranquillo Antonio. Io ci parlo spesso e ti dico che è veramente molto preparato, sia nell'anno sindacale che politicamente ti sa fare determinati discorsi, conosce bene la politica, conosce bene tutto ciò che è inerente a quello. Tranquillo. Va bene. Procinandia, riprendi. Via. Io vi sto per salutare. Ascolta, Cla, che mi salutati. Dove va questo radioamatore? 7770 hai detto. Guarda, 7070 c'è. C'è più o meno. Yeah. sicuramente già un buon punto, almeno quello è abbastanza favorevole. Va bene, ti ringrazio. Sentiamo le prossime. Ciao Claudio, ciao Pomponius e Gianni. A domani. Buonanotte. Ciao Antonio, domani ci sentiamo. Buon credito con tutto. Configurato. È morato, è malato. Non c'è nuovo. Non ho fatto un cambio, c'avevo quello di Alice che non mi serve, invece avevo uno in più di Discali. Proprio il router, io c'avevo il modem. L'ho configurato stasera. Sono riuscito. Abbiamo fatto la configurazione, adesso domani metto la chiavetta, il voice point, e mi collego l'altro computer per il cluster qua, e poi viaggio finito. Sono una settimana buttato qua dentro, non ci credi, una settimana buttato qua dentro, pertanto ora non c'è più niente, solo sarà ragazzi, fuori tutto per dare male, biciclette, motorette, armadi, armadietti, fatto l'altro pezzo. E ho finito tutto. Anche io mi sono stanco morto. Va bene. Allora, questa la possiamo spegnere. Questa sto trasmettendo. Ok, se lo siamo ancora acceso, vediamo se c'è qualche altra cosa. Magari se no, andando a cucarmi. Ok, dai Antonio, ti saluto. Saluto tutti quelli che sono all'ascolto. E ci sentiamo. Statemi bene, alle prossime. Cuore tengo anche per me. Buon per tutti. Via, ciao, qua, ci sentiamo. Alle prossime, ciao a tutti, quelli che sono nel canale. Ciao. Rimaniamo quello così, lo metto in una busta. Se domani mattina ce la faccio, ti faccio uno squillo, scende, te lo prendo, è una controllata, perché ha funzionato perfettamente. Funzionava perfettamente, se avevo iniziato a bloccarsi, avesse l'intemperie le cose, non era isolato bene, e quindi sicuramente da rivedere un po', ma già non è facile. Ma quando non lo aprire, perché se ne escono i pallini, ti casino adesso. C'è già quel becco aperto sotto, poi metti la fascetta, lo richiudi, la mettina, ed è una bella sistemata sopra all'avvolgimento, al motore. Lo attacchi al controbox, tanto ce l'hai tu, e vedi se sblocca da una parte o dall'altra, ok? E ecco, non c'è problema per quello, mica lo apro. Poi ha una cazzata agevolata appena la parte di CVC e giunta subito, magari c'è qualche cosa di ossido che si è formato e si blocca, magari c'è qualche cosa. Se gira a metà, vuol dire che il motore funziona, non ti preoccupare. A meno che si sia mangiato in garaggio, e dopo quello già si può rifare, dopo quello c'è un problema.